Come volete, secondo me è meglio prima. Anche cioè, secondo me. Anche secondo me, sì. No, l'intervento di Mark sulla presentazione del prossimo incontro. Dai. Allora incominciamo al modo inusuale. Ce la fai prima tu? Sì, no, sì. Allora, cominciamo. La serata, come ben capite, è la presentazione dell'ultimo lavoro di Boba, che io non ho letto. Secondo lavoro di Boba, che io non ho letto nessuno dei due, ma mi fa piacere comunque stare qua. Contestualmente, siccome il tema nascosto, sotterraneo, evidente, non lo so, è il rapporto tra scrittura e movimento, è inutile che facciamo finta che non sia questo. E il tema peraltro già emerso l'altra sera, quando la sera in cui c'era Marco, c'era Airoldi che presentava qui un romanzo, anche lui in qualche modo legato, se volete, all'esperienza diretta, alla sintesi di piccoli passaggi microstorici, direbbero le persone colte nelle faccende del tempo in cui viviamo. Dunque il tema è, secondo me, quello, e non è un caso che adesso Mark vi spiegherà che cos'è questo incontro che verrà fatto il giorno 3 dicembre, quindi fra una settimana, che ha a che fare con la presentazione di un nuovo libro di Evangelisti e qualcos'altro che lui vi spiegherà, di Alberto Prunetti. Scenditi pure al mio posto, ti devo questo. No, hai detto bene, il rapporto fra scrittura e movimento, e quello di sabato prossimo sarà il primo, in realtà poteva essere questo anche il primo incontro, o anche quello di Airoldi di cui diceva Flavio, il primo incontro di questa serie, di questa indagine, di questa inchiesta o comunque riflessione su rapporto fra scrittura e movimento, scrittura senza e scrittura. Scritture senza movimenti, insomma, sappiamo bene che purtroppo i movimenti negli ultimi anni latitano, e la scrittura, o comunque una scrittura che riflette sulle cose del mondo anche nelle maniere più diverse, anche latita, e quindi forse, ecco, ragionando con Roberto e altri compagni del Cox, questa voglia di riflettere su questo collegamento. Sabato prossimo ci sarà la presentazione di Non è un pranzo di gala, indagine sulla letteratura working class di Alberto Prunetti, che è un libro dove Prunetti cerca di dare un corpo teorico alla sua ricerca letteraria che ha fatto con Potassa, con 108 metri, con nel girone dei bestemmiatori, eccetera, e l'altro è una raccolta di saggi di Valerio Evangelisti, che è uscita dopo la sua morte, curata da Alberto Sebastiani, che sarà presente. E questa riflessione era nata prima del 2 anni fa, in realtà, ed era nata assieme a Valerio Evangelisti, perché comunque Valerio Evangelisti sapeva tenere assieme ricerca letteraria e posizioni politiche, chiamiamole rivoluzionarie, adesso insomma, poi con tutte le distinzioni che vogliamo fare, però rimaneva in un ambito di trasformazione complessiva della società. E Valerio poi ci ha lasciato, e quindi sabato prossimo iniziamo questo percorso. Interessante, credo, ho sfogliato prima il libro di Marco e mi sembra che questo collegamento ci sia anche nel suo libro, questo sforzo di tenere assieme quello che Valerio Evangelisti chiamava lui diceva, uno dei campi privilegiati di battaglia è quello sull'immaginario, proprio perché non si può immaginare la libertà senza libertà di immaginazione. E credo che continuare a tenere assieme immaginazione, creatività e trasformazione sociale sia una delle cose che dobbiamo continuare a fare. Ecco. Ah, vado avanti da solo, quindi va bene, dai. Vuoi far tu? Allora, innanzitutto ringrazio tutte e tutti che siete venuti qua stasera. Come dire, sono sempre un po' emozionato quando io presento i libri, sono sempre un po' in tensione. Poi man mano che chiacchiero mi sciolgo. Agli inizi sono un po' teso. Allora, mi conoscete quasi tutti, ci conosciamo quasi tutti qua questa sera. È una cosa, diventerà quasi una chiacchierata tra amici e qualche conoscente. Vabbè, io sono Marco, il mio soprannome è Boba e vengo a presentare Il nemico non è pietà. Allora partiamo dal titolo. Chi è il nemico che non ha pietà? Il nemico che non ha pietà è il capitalismo, lo Stato, i manager, cioè come dire, le cose che praticamente penso che quelli che siamo qui dentro stasera sono i nostri nemici naturali da quando abbiamo iniziato a scendere nelle strade, no? Da quando abbiamo preso coscienza del mondo, abbiamo iniziato a essere dei militanti, dei compagni, delle compagne, degli occupanti di case, quelli che spesso e volentieri i nostri nemici, i nostri detrattori ci chiamano il blocco nero. E questo libro è nato quando io ero domiciliari per la mia seconda detenzione domiciliare per l'incendio che c'era stato al carcere delle Vallette dopo lo sgombero dell'asilo. Difatti questo romanzo nasce proprio narrando di quello sgombero e di quei giorni che ne seguono. Visto che sono un po' teso, io farei parlare Mizzi che vi fa una lettura introduttiva. No, non parlo, ecco. Legge, non parla. L'aria è densa nella stanza da pranzo. Il silenzio è rotto dalle voci che escono da Radio Blackout, l'emittente cittadina indipendente, la radio antagonista. Andrea cammina avanti e indietro per la stanza, indeciso se uscire per andare a raggiungere le persone che si sono radunate a pochi metri dall'asilo, formando un presidio in corso Brescia, il corso che fiancheggia l'edificio assediato dalla polizia. Persone che, come lui, sono contrarie allo sgombero. Uscire o restarsene chiuso in casa con la sua tristezza. Oggi è giovedì 7 febbraio, una data che ricorderà a lungo, probabilmente per il resto della sua vita. Un giorno mesto da segnare sul calendario, come quando ti muore qualcuno di molto caro e negli anni seguenti non puoi fare a meno di associare la data a qualcosa di doloroso, ad una mancanza inconsolabile. Ha deciso, resta in casa, non ha più voglia di scendere in strada per lottare e gettarsi nella mischia, non vuole più saperne dei momenti di tensione con la polizia. Ciò che più lo trattiene è la consapevolezza che quei momenti sono inutili. Essere incazzato e confrontarsi davanti agli uomini in divisa ormai vuol dire rischiare solo botte e galera. Poi c'è il senso di frustrazione che ha provato decine di volte quando si è sentito impotente davanti alla violenza e all'arroganza degli sbirri, la quasi impossibilità di reagire incisivamente. Non vuole più vedere quegli sguardi beffardi dei suoi nemici che lo guardano con derisione, quasi a dirgli «Non siete un cazzo e noi facciamo quello che vogliamo», perché purtroppo è proprio così. Forze preponderanti, impunità, miseria intellettuale, trivialità macista da caserma, puzza di burocrazia. Ogni poliziotto rappresenta questo per lui, cose con cui non vuole più averci a che fare, neanche con il pensiero. Sono anni che si è allontanato dalla lotta politica, ha smesso di organizzare e partecipare alle manifestazioni, Niente più riunioni, assemblee, cortee, presidi d'estate e d'inverno, che erano per lui momenti di gioia ed ora, dopo decenni, non lo coinvolgono più. È un momento in cui i suoi 45 anni gli pesano. Gli sembra di avere addosso secoli, un tempo infinito che gli grava sulla schiena. Di sconfitta in sconfitta ha visto l'umanità peggiorare, scivolare verso l'abisso delle barbarie, correre a velocità folle verso l'autodistruzione. Di anno in anno i governanti del mondo sono peggiorati, umanamente impresentabili, razzisti, neoliberisti, versioni del terzo millennio del fascismo, negazionisti della catastrofe ambientale in atto, Bolsonaro, Trump, Erdogan, Salvini, uomini mediocri, con grandi poteri, retrogradi antiabortisti, militaristi, sessisti, omofobi, che anche il Papa si colloca a sinistra rispetto a loro. L'impossibilità di incidere sul presente, l'impotenza davanti ad un nemico immenso, lo caricano solo di rabbia ed odio. Avesse un mitra con sé, ora andrebbe al presidio di solidarietà accanto all'asilo e ammazzerebbe quanti più sbirri possibili. Ma non ce l'ha, non ha mai voluto avere un'arma, proprio per paura che l'avrebbe potuta usare. Quando gliene avevano proposta una, aveva declinato l'offerta e ora si chiede se sia stata la scelta giusta. Grazie Mizzi. Vabbè, questo che avete ascoltato dalle parole di Mizzi, praticamente è quasi l'inizio del romanzo, si sta parlando di Andrea il protagonista. Andrea è una persona molto disillusa, alcuni dicono che potrei essere io rispondo che magari è un po' il mio alter ego. Tenete presente che quando io l'ho scritto questo romanzo ero appunto ai domiciliari, c'era stato lo sgombero dell'asilo che ha lasciato molti strascichi in città, sia emotivi ma anche politici, nel senso che la mancanza dell'asilo si sente ancora adesso. Io ero chiuso in casa e i primi mesi tra l'altro avevo anche tutte le restrizioni per cui non potevo incontrare persone. Per me la scrittura è sempre stata una forma di sfogo, di liberazione, non è, e quindi avevo il tempo e la necessità di scrivere, però vedevo quello che accedevo, vedevo attraverso i telegiornali, attraverso internet, ascoltavo attraverso la radio tutto quello che avveniva intorno. Ne soffrivo e il senso di frustrazione che già avevo da un po' di tempo era molto accentuato col fatto che fossi domiciliari. E quindi mi sono immaginato una storia, no? Questa storia qua di questo Andrea, che è una persona, sembra un preso male, no? Uno disilluso, non voglio spaventare chi invece continua a lottare. Come dire, in quel momento lì non vedevo sbocchi, per cui vedevo abbastanza nero. Però questo Andrea dopo un po' decide che di subire, di restare a guardare non ce la fa più, quindi inizia a cercarsi i suoi nemici e se li va a ammazzare uno per uno. Chi sono i nemici in realtà? Chi sono i nemici? Possono essere i giornalisti, possono essere i manager, possono essere i manager di autostrade, di Ferrovie per l'Italia. Gli sbirri, i giornalisti, l'ho già detto, alcuni politici, insomma anche alcuni i nazisti. Comunque lui decide di fare questa sorta di vendetta solitaria. Perché questa forma di vendetta? Perché l'ho messa nel romanzo? Perché fa parte della mia cultura, nel senso che io sono cresciuto con i film di Sergio Leone, con i film western, con i film degli asiatici, di John Woo e dei coreani, perché in cui c'è molta violenza e il senso della vendetta è molto forte per queste persone in questi film. Però non volevo solo mettere queste cose qua, io attraverso i romanzi, i romani, ne ho scritti due, non è che ne ho scritti tanti, comunque attraverso la scrittura mi piace anche raccontare ciò che siamo, quando dico noi intendo il movimento, no? Quelli che fanno le cose, che fanno la militanza da sempre, che però, come dire, pochi di noi raccontano ciò che siamo. Generalmente sono gli altri che parlano di noi, ci dipingono come più gli aggrada al momento, no? Alle volte siamo personaggi folcloristici che occupiamo le case, altre volte siamo i violenti che fanno gli scontri nelle piazze, o siamo i cattivi in Val di Susa, o... beh, la sappiamo tutti, questa è una storia che conosciamo tutti. E quindi di cosa parlo poi ancora in questo romanzo? Cioè, si parte dallo sgombro dell'asilo, è un romanzo che inizia molto militante, ma poi prende un respiro un po' differente. Inizio a raccontare, cioè, una vicenda che prende poi proprio più da romanzo, più che da cosa militante. Però io continuo, essendo quello che sono, continuo, ci ho messo molto della mia città, per cui racconto la Torino che è e quella che era e i cambiamenti in atto negli ultimi 15, 20, 30 anni, come l'ho vista cambiare. Si parla delle sue mutazioni, di come è mutata la gente della città, della gentrificazione in atto in alcuni quartieri. E poi sempre attraverso il romanzo mi piaceva raccontare il carcere, che cos'è il carcere. Non solo il carcere, ma tutta una serie di cose, che ne so, tipo gli avvenimenti dell'estate del 2019. Non so se ve la ricordate, l'estate del 2019 è caratterizzata dagli incendi in mezzo mondo, Amazzonia, Siberia, Africa, ma anche, per restare in un ambito che più ci appartiene, c'è stato lo sciopero delle compagne nel carcere dell'Aquila contro, contro la sezione speciale. E poi, appunto, essendo io libero di mi sono sentito libero di scrivere, di raccontare ciò che sono e che più mi piace. Si parla di cucina, di lavoro, di cinema, di mare, di droghe, di sostanze, di azione, di politica, e anche magari di morte. Di politica, di violenza politica. E c'è, ovviamente, nel romanzo c'è anche una storia d'amore. Perché ho messo tutte queste cose? Perché io quando scrivo, io sono uno che ama molto leggere i romanzi, la letteratura, e mi immagino che le mie cose non vengano lette solo dai compagni, ma anche dal cosiddetto cittadino medio, l'uomo comune. Mi sforzo di raccontare a queste persone, di dire chi siamo realmente, no? come dicevo prima. La storia è complessa, nel senso che, come dice qualcuno, avrei potuto scrivere tre romanzi anziché uno solo, perché ci sono più storie che si intrecciano fino a diventare una storia unica. La storia, appunto, di questo Andrea che agli inizi è molto preso male, e poi incontra Viola, che è una sua amica, una sua ex amica, che si unisce a lui in questa sua ricerca di vendetta. E poi ci sono dei rapinatori che sono molto particolari, c'è Elena, che è una donna che nel romanzo è già morta, nel senso che rivive attraverso un diario che Andrea gli capita, gli viene in possesso di questo diario, e quindi attraverso il passato, i flashback che lui ha di Elena, attraverso i suoi ricordi, racconto anche un po' di avvenimenti dell'Italia, sia avvenimenti politici ma anche più di storia. Non so se vi ricordate il periodo del 15 ottobre 2011 a Roma, qui lo racconto molto. Poco tempo prima c'era stata un'alluvione in Lunigiana, per cui racconto anche di queste cose qua. Racconto di varie inchieste che hanno subito gli anarchici nel tempo. Io prenderei una pausa e vi farei leggere Mizzi, che vi racconta chi è Viola. Lo scafo blu scuro della barca a vela entra in porto muovendosi con eleganza. 40 metri di scafo scivolano dolcemente sull'acqua turchese. Le altre barche al suo cospetto sembrano dei giocattoli. Guardando dal pontile l'albero, non si direbbe che sia più alto di un palazzo di 16 piani. Con un'abile manovra la barca canta al molo. L'uomo a terra fissa gli ormeggi e dal ponte in tec scendono a terra i passeggeri. Ricchi turisti canadesi che hanno trascorso una settimana spostandosi tra le isole caraibiche ad attenderli un minibus che li porterà nella parte olandese dell'isola, dove c'è l'aeroporto. L'equipaggio resta a bordo per le pulizie e la capitana, una donna italiana, nella sua cabina si cambia d'abito, via la divisa e addosso dei pantaloncini comodi e un top colorato. Finisce al lavoro al computer e poi, sempre incollata allo schermo, cerca notizie in rete. Un paio di giorni prima l'avevano avvisata di quello che è successo a Torino. Ora approfondisce dai siti di movimento, dai giornali online e con le mail arrivatele da chi è lì. Più legge e più le salgono l'ira, la tristezza e il senso di impotenza. Anche se quel mondo l'ho abbandonato da anni, l'asilo è un pezzo del suo passato. Ci ha vissuto per alcuni anni. Con i suoi conviventi di un tempo aveva creato la palestra, aveva migliorato la cucina e fatto mille altri lavori. Aveva cucinato per le cene benefit e fatto la barista. I momenti allegri, i lutti, le sbronze, il sesso, le feste, i concerti e tutto ciò che è un posto occupato, quel posto occupato, resteranno solo un ricordo destinato a sbiadire nel tempo. Ricorda con nostalgia la sauna che era stata costruita dietro la cucina, le sudate in solitaria o collettive, quando dalle altre case occupate della città qualcuno arrivava ogni giorno per usufruire di quel piacere. Stasera, scendendo a terra, avrebbe fatto come ogni volta che i turisti ripartono. Sarebbe andata in un ristorante di Marigot e poi in un bar a bere e a ballare. E magari avrebbe incontrato Eros, un marinaio con cui da poche settimane si frequenta. Ma non ne ha voglia. Gli è passata ogni fantasia di baldoria. Ora vorrebbe ritrovarsi con i vecchi amici e ricordare insieme, magari bevendo vino. Vorrebbe essere dall'altra parte dell'Atlantico, nella città in cui è cresciuta e fare qualcosa. Invece è bloccata a Saint-Martin, una minuscola isola delle piccole Antille, un'estensione della Francia e dell'Olanda, memoria del colonialismo europeo. Tra qualche settimana riporterà nel Mediterraneo la barca su cui lavora. Poi, con un aereo, volerà fino in Brasile per godere del suo mese di vacanza. Ha già il biglietto prenotato e pagato, ma in questo momento le è passata anche ogni fantasia di viaggiare. Scende a terra, si volta e guarda la barca. La ama, le ha dato molto di sé ed è stata contraccambiata. Le luci delle altre barche che si specchiano nella laguna le ricordano che lei ha scelto il mare. Quello che succede a Torino appartiene al passato, frutto di una scelta consapevole e ponderata. Pochi metri più avanti vede ormeggiata la barca di Martin, una sua amica francese. Vabbè, non è che sono tutti presi, cioè il libro non è solo fatto di presa malagine, questo è l'inizio, sono i personaggi che all'inizio, dopo lo sgombero dell'asilo, se la vivono male ovviamente, però poi vi assicuro che ogni tanto c'è anche da divertirsi, cioè chi l'ha letto magari ve lo può confermare, chi non l'ha letto, sorpresa. quindi questo Andrea è un po' preso male, è molto preso male agli inizi del romanzo, cioè inizia la sua vendetta perché non ne può più, incontra Viola che lo affianca, poi incontra sulla sua strada questa banda di rapinatori per puro caso, per cui diventa proprio più un romanzo di ampio respiro, in cui, come dire, anche chi legge respira un po' e smette di stare preso male. Chiaramente quando io l'ho scritto non è che fossi tanto allegro, ma questo ve l'ho già detto, per cui andiamo avanti. I personaggi, chi sono i personaggi? I personaggi buoni sono Andrea, Viola, i rapinatori. Perché li considero buoni? Perché appunto da uno che ama molto leggere, nella letteratura ufficiale, chi fa rapine, gli assassini o comunque personaggi che sono considerati oscuri finiscono sempre male, o finiscono in galera o finiscono morti. Invece, visto che io sono padrone di scrivere quello che voglio, ho trovato una casa editrice che accetta anche che si scrivano queste cose, i buoni, che tanto buoni non sono, perché comunque ammazzano e ne fanno di tutti i colori, i buoni vincono e i cattivi, che vengono quasi riumanizzati nel momento della morte, ma nemmeno troppo, perché sono dei cattivi che a cui mi sono ispirato dalla cronaca di vita e cronaca politica. Chi ha letto il romanzo ci può riconoscere. È vero che sono ormai vicende un po' vecchie, perché stiamo parlando del 2019, sono già passati 3 anni. Però il giornalista è un giornalista che ai tempi, quello che viene, che è la prima vittima della vendetta di Andrea, è un giornalista che è stato in Val di Susa, o comunque che ha frequentato Torino, conosce bene. Adesso questo giornalista non c'è più, è volato in cielo, poverino come un angioletto. Oppure ci sono, che ne so, i vari manager di autostrade, o come dicevo prima, delle ferrovie dello Stato. Cioè, chi conosce, chi legge i giornali, chi ascolta i telegiornali o i giornali radio, può capire di chi si parla. Chiaramente i nomi non sono quelli veri. Chiaramente per evitare querele e cose varie. Però sono abbastanza riconoscibili. E poi ho anche giocato un po', per chi è appassionato di calcio, ai buoni ho dato i nomi di alcuni giocatori del Toro, nella storia del Toro Calcio. E invece i cattivi hanno i nomi di quelli della Juve. Sì. Per cui il protagonista si chiama Andrea Pulici, che riprende il nome da Paolino Pulici, il storico goleador del Toro degli anni 70, che ci ha regalato lo scudetto. Come? Diciamolo, certo. Tra le vittime, appunto, che poi tanto vittime non sono, ci sono anche un paio di avvocati, uno che difendeva gli stupratori e uno che difendeva gli sbirri. Cioè, ci sono delle citazioni che anche poi, se avete voglia di cercare, chi c'ha voglia di leggere il libro, capisce chi sono queste persone. Come dire, io ero chiuso in casa e avevo questa carogna dentro e quello che mi accadeva intorno dovevo sublimarlo in qualche maniera, per cui mi immaginavo delle cose, cioè cosa gli farei a questo, ma magari sono cose che capita anche a voi, no? Ascolti il telegiornale, senti l'avvocato che dice i poliziotti dovrebbero sparare in testa a questi manifestanti così senza problemi. Si riferiva a quella manifestazione che c'era stata a Piacenza, in cui i carabinieri avevano caricato il corteo, però erano un cordone piccolo di carabinieri, il corteo ha reagito e si vede un carabiniere che finisce malmenato. E un avvocato romano che difende le forze armate ha fatto queste dichiarazioni, che i poliziotti dovrebbero avere il diritto di sparare in testa a chi gli emena. Chiaramente è una cosa, sentire una cosa così in TV ti fa il sangue agli occhi. E io ho sublimato facendolo morire per mano del buon Andrea. Raga, non lo so, oggi sono un po' teso, non riesco a essere più sciolto, non riesco a parlare molto. Vabbè. Leggo un pezzo dei Rapinatori. Ecco, brava, leggi dei Rapinatori. La trama, allora, la trama è... No, sono lui e lei. Cioè, lui inizia da solo a ammazzare quelli che gli stanno sulle balle. Incontra... Non puoi raccontare tutto il romanzo. No, non incontro tutto il romanzo. Cioè... No, non sto spoilerando. Adesso... Io sono a favore dello spoiler. No. Lui, c'è la descrizione di come questa sua mutazione da persona presa male a persona che finalmente si riprende. Tra l'altro Andrea è una persona molto anaffettiva, no? Non riesce mai a innamorarsi, tutte le donne che sono state con lui pativano questa sua cosa, e si innamora alla fine solo di Viola. Cioè, man mano che diventa un assassino spietato incontra anche l'amore. Su questo ci ho giocato un po', perché Andrea, come dire, potrebbe essere il mio alter ego, ma anche il mio opposto, perché invece il mio difetto, cioè, che ho avuto nella mia vita, è quello di essere innamorato tante volte, al contrario di Andrea. Questa è la variante. Non posso più dire più niente. Quello che c'era da dire ve l'ho detto. Sì, adesso. Operatorio oppure questo? Cos'è? Vi faccio leggere due cose. Prima una, poi l'altra. Allora, prima i Rapinatori, dai. Prima i Rapinatori. Due uomini escono dall'autogrill. Si avviano lentamente verso le auto parcheggiate poco lontano. Uno si accende una sigaretta, si fermano sotto la tettoia. La foschia nasconde la vista di ciò che li circonda. L'uomo più vecchio sembra doversi fare coraggio per tirar fuori le parole. Non sa come incominciare. Faceva proprio schifo sto caffè. È per farmi bere sta merda che ci siamo trovati qui. Per me sei sempre stato come un fratello, credimi, ma ti devo dire una cosa importante. Lo so, è la stessa cosa e per me sei un fratello, il mio fratello grande. Guardami negli occhi, con me puoi parlare tranquillamente. Per me ieri è stata l'ultima volta, non ce la faccio più. Silenzio, l'altro non commenta, aspetta paziente che ogni parola venga fuori. Sto invecchiando, non voglio finire in galera, non voglio venire ammazzato e non voglio ammazzare nessuno. Aspira nervosamente dalla sigaretta, accorciandola velocemente ad ogni tiro. Ieri ci siamo andati vicino. Ho capito che quel coglione stava per tirare fuori la pistola nascosta. E infatti sei stato bravo, hai sparato non a lui ma molto vicino. La guardia si sarà cagata addosso e gli è passata subito la voglia di fare l'eroe. Sì, però se non me ne accorgevo sarebbe andato tutto a puttane. L'uomo più giovane rivede tutta la scena. Da quando avevano bloccato il furgone portavalore avevano convinto le guardie a scendere, le avevano fatte sedere sull'asfalto, nel silenzio della campagna, in una strada circondata dai campi arati e avvolti dalla bruma. Rivede Milo che spara, risente il crepitio dell'arma e i proiettili fischiare, rivede la paura dell'uomo a terra e la rabbia di Milo che gli sferra i calci in faccia dopo averlo disarmato, ne risente gli insulti urlati. Lui, impassibile, aveva continuato a dirigere l'operazione di scarico del furgone, aiutando a caricare i sacchi con i soldi sul fuoristrada col motore acceso. Lui stesso aveva poi messo le fascette da elettricista ai polsi dietro la schiena dei due guardioni. Era stato l'ultimo ad allontanarsi, attimi rallentati, in cui ogni secondo dura un minuto, e infatti i pochi minuti in cui si era svolta la rapina erano sembrati ore, come sempre. Apprezza la sincerità di Milo, ma ciò non gli impedisce di avere il magone e nello stesso tempo sa che rimpiazzarlo non sarà facile, anzi sarà impossibile. Con Milo e Pino sa che non c'è bisogno di parlare quando si entra in azione. Sono intelligenti, sanno come muoversi e sono assennati, senza esaltazione, senza tante minchiate da film. Sanno lavorare, sanno fare le rapine. È grazie a persone così se non sono mai stati arrestati. Non vuole neanche pensare che l'abbandono di Milo sia il segno del tempo che passa. Magari tra qualche anno anche lui si sarà stufato. Comunque tempo ne ha per trovare un sostituto. Per quest'anno il lavoro è andato, per il prossimo passeranno mesi e se ieri erano in Veneto, il prossimo lavoro sarà in un'altra regione. Grazie. Ovviamente è un romanzo di finzione, a parte alcuni personaggi a cui mi sono ispirato per farli morire. Questi rapinatori sono un po' particolari, ovviamente. Li ho fatti un po' come mi piacerebbe essere se io fossi un rapinatore. Purtroppo non lo sono. Un attimino, devo fare mente locale perché volevo dire più cose e adesso volevo tornare un attimo su un'altra cosa, su un altro argomento. Questo romanzo è intriso di violenza, ma proprio ce n'è tanta. E c'è anche un po' come... ho cercato di descrivere il conflitto interiore che può avere una persona che si ridefinisce un compagno nell'affrontare la violenza. Io sono uno che non si è mai fatto scrupoli di usarle quando è stato necessario, però un conto è usare la violenza in piazza e un conto è ammazzare qualcuno a sangue freddo, no? Guardando questa persona negli occhi. Tutta questa cosa qua che provato a immaginare questa cosa, come se davvero dovessi ammazzare qualcuno, così come me la vivrei. Spero di esserci riuscito, anche perché nella letteratura ufficiale, nei film, la gente ammazza così, come se niente fosse, no? Se vi capita di vedere, soprattutto nei film americani, tutti sono tranquilli, ammazzo uno e poi subito dopo mi bevo il caffè. Non può essere così, cioè, hai tolto la vita a qualcuno. E quindi ho cercato di descrivere anche questa cosa qua. Poi il nostro protagonista l'affronta alla sua maniera, che ritiene per lui la più saggia. Riguardo a questo proposito, ti farei leggere quando lui ammazza il nazista. Che anche questo è nazista, mi sono ispirato a una storia vera, ve la racconto brevemente mentre Mizzi cerca la pagina. Qualche anno fa un gruppo di nazisti di Verona, quelli che avevano ammazzato un amico di quelli che avevano ammazzato Tommasoli, non so se ve la ricordate questa vicenda, negli anni 2000, metà degli anni 2000, un gruppo di nazi che andava anche allo stadio massacravano gay, punk, compagni, chi gli capitava. E quella volta lì c'erano andati giù duro e l'avevano ammazzato di botte questo Tommasoli. Sempre gente di quell'area lì aveva beccato due compagni e una compagna e li avevano accoltellati. Qualche tempo dopo uno di questi due, uno di quelli che si era preso le coltellate, era in piscina e che si trova come bagnino uno dei nazisti che l'aveva accoltellato. Era in compagnia di un amico e gli dice: io adesso gli vado addosso. E il suo amico diceva: no, aspettiamo. Cioè, ha cercato di calmarlo. Questo invece aveva sangue agli occhi, è andato dal bagnino e l'ha gonfiato come una zampogna. Se non che l'eroico nazista cosa ha fatto? Ha chiamato gli sbirri e il compagno è stato denunciato e condannato, tra l'altro, perché il giudice ha detto che lui non si poteva sostituire allo Stato, cioè era compito dello Stato punire i colpevoli. E vabbè, questo qua mi stava sul cazzo, questo nazista, per cui lo faccio morire anche lui, ovviamente. Sì, è una sorta di pulizia. Vabbè, però vorrei ritornare un po' su cosa potrebbe significare sparare in testa a qualcuno. Mizzi, leggi. Ora è il momento della verità, un punto di non ritorno. Ci sarà un prima di questo istante e un dopo, basta un attimo. Il dito deve premere il grilletto e poi sarà un vero assassino. Con Gerzi è stato più semplice, non ha dovuto premere il grilletto, non ha sentito lo sparo e non ha visto il sangue nella vita fuggire davanti ai propri occhi. Sono solo pochi secondi. Non credeva che in un tempo così ristretto ci fosse così tanto spazio per formulare pensieri. Il tempo delle esitazioni è finito. Il cuore nelle orecchie, nel cervello, o spara o deve andarsene di corsa, gli occhi dell'altro dentro i suoi, uno sguardo terrorizzato che sta cogliendo il dubbio, una speranza di salvezza che si accende. No, non meriti né vita né pietà. Bang! Quello sguardo acceso dalla speranza diventa stupore, dolore. Andrea gelido lo osserva mentre si guarda il ventre, il sangue che macchia i vestiti. E poi ancora due spari, uno al petto e uno in testa. È vero, niente sarà più come prima. La paura si è dissolta al primo colpo, una strana tranquillità si impossessa di lui. Con perfetta lucidità si allontana a piedi seguendo un percorso a serpentina in cui evita le telecamere dei commercianti. Arrivato alla macchina si toglie il cappellino e la giacca da corriere. Le strade sono sgombre e velocemente esce da quella città. È un posto che gli è sempre stato sul cazzo, così come i suoi abitanti. Parlo di Verona, cioè mi è sempre stata sul cazzo, per cui ovviamente ho messo questa storia qua. Vabbè, io sono quasi alla fine per quanto mi riguarda. Volevo solo dire due cose riguardo a questo romanzo, che sono è illustrato come fanno in tutti i romanzi la mia casa editrice, che si chiama Eris, che è una piccola casa editrice che nasce all'indomani del movimento dell'onda nel 2008 da alcuni ragazzi che erano in Radio Blackout. Dopo il movimento dell'onda decidono che volevano provare a far passare l'idea attraverso altri mezzi, e quindi mettono su questa piccola casa editrice. E come vi dicevo prima, come per me, quando io scrivo mi rivolgo a non solo ai compagni ma a tutti i lettori, anche loro hanno quest'ottica: far passare, far uscire dai nostri, cioè raccontare chi siamo, come viviamo, le nostre idee, e farle arrivare anche al di fuori. Ritengo che sia una cosa fondamentale, perché sennò staremo sempre tra di noi a suonarcela e contarcela, tipo stasera che siamo tra compagni, cioè spero perlomeno di essere tra compagni e che non ci siano nemici. Perché ad esempio quando avevo presentato l'altro romanzo sempre qui a Milano, mi era capitato poi che c'era uno sbirro in sala che si era sentita tutta la presentazione, e questo qua era vestito da, cioè sembrava un hipster come tutti gli altri, mi ha detto: senti, io vorrei, ti ho comprato il libro, vorrei una dedica, però io sono uno sbirro. E io sono rimasto sono rimasto abbastanza agghiacciato, però essendo io di natura una persona gentile spesso, tranne quando mi scattano i 5 minuti, alla fine gli ho scritto sul libro, vabbè, gli ho scritto il nome a uno che sta dall'altra parte, appunto, no? Cioè, sono stato abbastanza diplomatico. Vabbè, stavo dicendo, Eris nasce appunto in quel periodo lì, si occupa di letteratura e soprattutto di fumetti e graphic novel. I libri che fanno, i romanzi che fanno, li fanno un po' alla maniera dei primi del Novecento, in cui ci sono anche delle illustrazioni. Per ogni romanzo cercano il grafico, l'illustratore che più ritengono idoneo. Le tavole che sono presenti in questo romanzo le ha fatte Officina Infernale, e penso che sia riuscito abbia fatto un buon lavoro. Mi sembra di avervi detto tutto quello che volevo dirvi, anzi avrei voluto dire qualcosa di più, ma questa sera i miei neuroni sono un po' bloccati, non capisco perché, e quindi se avete qualcosa da dire mi farebbe piacere, interagiamo un pochino. Se no, ci salutiamo, ci ubriachiamo, facciamo festa, non lo so, ditemi voi. Grazie a voi. Hai voglia? Se la fai il microfono così viene registrato. I libri a cui ti sei ispirato, se tu sei un lettore molto forte, dici, c'è qualche riferimento tra quello che hai scritto in certi libri particolari? Come dire, non lo so, c'è tutto quello che ho letto è un po' un sunto, c'è molto molto, cioè sì, penso forse inconsciamente il Conte di Montecristo, che l'avevo letto poco prima che mi arrestassero, per cui c'è questa cosa della vendetta, di avere pazienza e aspettare il momento buono per vendicarsi, sì, sì, ma poi ho letto tantissime cose, e anche le più diverse, per cui ho assorbito come una spugna un po' tutto quanto, e non posso dirti altri autori. Sì, forse il Roy su alcune cose, no? Il Roy o Steinbeck, no? Non lo so. Sta a voi, se c'è voglia di leggertelo, poi magari mi mandi una mail, dici guarda che quella roba lì mi ha ispirato un po'. Hai fatto molti nomi di registi, che è interessante. Adesso hai fatto praticamente un nome, due di scrittori, però prima invece hai fatto è vero. Una bella lista di registi che ti hanno ispirato, che è molto interessante, che dà anche il senso del racconto, cioè perché comunque il riferimento a quei registi e ai loro film ti dà il senso del raccontare una storia, ma anche della visione, no? Di quello che uno vede. Di questo magari interessante che tu dica qualcosa di più rispetto a questi registi. Fra l'altro c'è un regista degli anni 70, non so se ti piace o meno, che era Fassbinder, che diceva che in i film liberano la testa, diceva che i film non devono essere a lieto fine perché devono lasciarti dentro una rabbia. Adesso io non so se il tuo romanzo è lieto fine o meno, però ecco, se dici qualcosa in merito a questa. Non so se può considerare un lieto fine. Comunque sì, è un romanzo molto cinematografico, al di là dei film che vengono citati, che la casa editrice, quando abbiamo fatto l'editing, me ne ha cassati molti, cioè mo basta, cioè, ho citato un sacco di registi proprio all'interno del romanzo. Più che altro ci sono un sacco di scene che sono molto cinematografiche, proprio nella descrizione, perché me lo immaginavo così, mentre scrivevo, dicevo, mi immaginavo se questa fosse una sceneggiatura, la farei così, e chi ha letto il romanzo forse te lo può confermare. Fassbinder lo conosco poco, conosco più, cioè, gli americani, ma anche, no, beh, gli europei, c'è molto Wenders nella mia testa che mi ha formato quando ero giovane. Poi, essendo nato a Torino, essendo vissuto a Torino più che altro, nella fine, a metà degli anni 80 è stato creato il Museo del Cinema, in cui i primi anni c'erano tre sale dedicate a rassegne su rassegne, per cui entravi alle 2 del pomeriggio, potevi uscire a mezzanotte, ti vedevi un film dietro l'altro con un biglietto solo. Per cui tutto quello che ho assorbito da giovane sta uscendo fuori adesso che sono un po' anziano. Poi non è vero che sono anziano, cioè è giusto così per dire. Sono ancora, come dire, anagraficamente potrei essere di mezz'età, e poi con la testa sono una bella testa di cazzo ancora come quando avevo 15 anni. Passatemi il francesismo. Vorrei che Vicky dicesse qualcosa, visto che ho organizzato questa presentazione. Sai com'è, non è che puoi nasconderti dietro la cucina. Dentro. Allora, grazie a tutti di essere venuti. Io il libro l'ho letto e non spoilerò. Non spoilerò. Volevo dire una cosa nel merito del finale... Del finale, si vede. Del finale che deve essere sempre avere qualcosa di, non so come ti sei espresso, non negativo, però finire non deve essere a lieto fine. Io vi consiglio di leggerlo. Fine. Grazie. Sì. L'intervento migliore della serata. Senso, cioè, perché devo parlare di sorveglianza in questo momento che stiamo parlando di un romanzo? Cioè, fai tu un collegamento, non lo so, io non riesco a vi raccontare la mia sorveglianza. Che cazzo c'entra, scusate? Se qualcuno fa un collegamento io parlo, vado a briglia sciolta sulla sorveglianza, se no anche no. Io invece ho una domanda, ce l'avrei, la faccio da poco e veloce. Anche attraverso fiction o cose che leggi, che immagini, eccetera, la questione del monopolio della violenza, che è quella dello Stato, del capitalismo. Io ho letto solo il tuo primo libro, questo lo leggerò, e anche di là c'era questa cosa. Esposti, secondo me, un po' la questione, come dire, no? Cioè, se tu sposti anche il campo della paura, eccetera, a questo punto è il nemico che ha paura e si sente meno questa. Cioè, c'è una. Su tutta questa violenza che per poi a me non piacciono invece i film e dove c'è tutto questo splatter, tutto questo, non mi piacciono più un cazzo, però invece nel libro è meno impattante, no, rispetto al film, e... Allora, guarda, cioè, sì, vabbè, con piccolo inciso, non è che mi piacciono i film splatter, no, non mi interessano, però mi piacciono quei film dove, poi arrivo dove vorrei andare tu, giusto una correzione, mi piacciono i film dove c'è tanta, il senso della vendetta, proprio tu hai fatto questo, se, te la devo far pagare, questa roba qua proprio è dentro di me, chi mi conosce sa che sono così. Riguardo a quello che stai dicendo, tu stai quasi per citare praticamente il retro di copertina dello scorso romanzo, in cui il protagonista, è una frase estratta dal romanzo che la casa editrice ha deciso di mettere come quarta di copertina, e quella frase lì è finita negli atti del processo per la richiesta della mia sorveglianza speciale. Era questo che volevi farmi, era questo l'assist che mi hai fornito. Sei meglio di Claudio Sala. No, adesso lo spieghi tu chi era Claudio, dopo lo spieghi. La cosa grave, infatti adesso va bene parlarne, dopo che abbiamo parlato del romanzo, è che un romanzo finisca in un'aula di tribunale per una richiesta di sorveglianza speciale è una cosa molto grave. Quando c'è stata la richiesta della sorveglianza speciale per me, oltre al mio passato di ultra trentennale carriera militante, c'era scritto proprio palese, cioè non sono servite gli arresti, le detenzioni, Bolognino, che sarebbe il mio cognome, non ha mai smesso di essere anarchico, tra l'altro come se essere anarchici fosse una cosa vietata dal codice penale o non permessa dalla Costituzione, vabbè, ma queste sono sottigliezze, relativamente sottigliezze, perché comunque il fatto appunto che io abbia scritto un romanzo e che questa quarta di copertina fosse la prova provata della mia pericolosità sociale, quello, l'aver scritto questo romanzo e il fatto di aver partecipato alla vita di Radio Blackout, che è una radio regolare, pur essendo la radio di movimento, comunque è una radio ufficiale, non è una radio pirata, sono sintomi della mia pericolosità sociale. Poi il giudice ha deciso, quando mi ha dato la sorveglianza speciale, ha deciso di non utilizzare il libro, però ciò non toglie che comunque il libro, il romanzo e il fatto di essere un DJ di una radio è grave che sia finito in tribunale. Radio Blackout secondo me non ha fatto una campagna adeguata riguardo a questa cosa qua, mentre in compenso la casa editrice Eris ha scritto un comunicato molto bello, lo trovate dovunque su internet, e l'ha fatto girare dovunque attraverso i social, ha avuto questo comunicato, ha raggiunto milioni di persone, ma davvero, cioè, ci sono proprio, come dire, i conti alla mano, cioè, su internet vedi le visualizzazioni delle cose, tant'è che sono stato intervistato da un sacco di realtà completamente anche diverse da me, che ne so, da Radio Onda d'Urto oppure da Radio Sherwood, dal Manifesto, Carmilla ha scritto, Giorgio Moiso di Carmilla ha scritto un bellissimo articolo, ho partecipato a un meeting in internet in cui c'ero io, c'era Giorgio Moiso e Paolo Ferrero di Rifondazione, ex ministro, non mi ricordo in quale governo, ministro del lavoro, Paolo Ferrero di Rifondazione Comunista, perché questa, in molti della cosiddetta società civile si sono resi conto che quella era una cosa che non andava, che non doveva esistere. Il problema è che ha fatto un precedente, cioè come è successo con me potrebbe riaccadere questa cosa qua. È vero che io arrivo da Torino in cui i movimenti sono sempre stati forti, però anche la repressione è sempre sperimentato sulla pelle dei compagni e delle compagne, mille forme di repressione, cioè le sorveglianze speciali che ultimamente in Italia sono state richieste, tante sono state cassate ma alcune sono state affibbiate, partono da per altri compagni partono da Torino, cioè già una decina d'anni fa, nel senso che la sorveglianza speciale non è una misura nuova, non è una misura nemmeno fascista, si parte ancora prima dell'Unità d'Italia, ed era applicata a vagabondi, a gente che, come dire, non c'aveva voglia di lavorare e cose così. Il fascismo iniziò a applicarla verso i dissidenti del regime, però in Italia nel dopoguerra veniva applicata a chi aveva reati seri, o comunque reati associativi riguardo reati di mafia. L'utilizzo per i compagni è roba degli anni 10 del 2000. Con i compagni? A richiederla, sì. Sì. Grazie Chicca che mi hai fornito l'assist. Comunque Claudio Sala era il numero 7 del Toro del 1976 quando ha vinto lo scudetto. Purtroppo non è andato in nazionale perché quello stesso ruolo ce l'aveva uno che si chiamava Franco Causio e giocava nella Juve. No, Franco Causio non c'è. No, a dire la verità non mi sembra di avere... Cioè, mi stanno talmente sulle balle quelli della Juve che non gli ho dato nemmeno dei cognomi, cioè, li ho evitati. Cioè, solo cognomi di calciatori del Toro per i personaggi positivi. Comunque, ritornando a quello che mi dicevi sul lieto fine. Il lieto fine nel senso che appunto i rapinatori non vengono arrestati, malgrado ci sia uno sbirro che si spende tutto se stesso per cercare di arrestarlo, Andrea e Viola fanno quello che fanno e non vi dico nient'altro. Io, cioè, se non ci sono domande, curiosità, aneddoti, non ho quasi più niente da dire. Cioè. Allora dico una piccola... Di tu. Dico una piccola cosa perché mi ha fatto venire in mente Boba la faccenda della violenza e della non riconciliazione. Il 18 dicembre, come Calusca, faremmo, e anche come Cox, faremo un omaggio a Jean-Marie Straub, che è morto 3 giorni fa, mi pare. E uno dei film più interessanti di Jean-Marie è Nicht Versöhnt, che è Non Riconciliati, ed è la storia di qualcuno che dice adesso quello lì devo ucciderlo. E quello lì non è esattamente una persona che meriterebbe baciargli i piedi, insomma. No, vi invito perché sarà il lavoro del regista di Jean-Marie e di Daniel, sua moglie che è morta già 10 anni fa, è uno dei lavori più radicali del cinema contemporaneo e mi ricorda molto per certi versi gli sforzi che fanno le persone come Boba per raccontare i tempi in cui noi viviamo. Loro più legati alla fiction già scritta, in questo momento lui più legato alla fiction che scrive, insomma. Però diciamo che l'orizzonte e l'attenzione e l'insistenza sono le stesse. C'è qualcosa da decifrare e cerchiamo di decifrarlo insieme. Vi invito a vedere questi film allora. Allora, se nessuno ha più niente da dire, vi ringrazio davvero di cuore che siete venuti qua a ascoltare me e Mizzi, che ringrazio anche Mizzi che ci ha accompagnato nelle letture. Che dire, vi auguro una buona serata e alla prossima. E grazie a Vicky che ha cucinato. Grazie Vicky. Penso che adesso ci sia l'aperitivo. C'è. C'è. E anche grazie al tecnico del suono.